Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Maltrattamenti a una bambina disabile a Ronchi dei Legionari, le due maestre forniranno presto la loro versione. Dopo i disagi sui servizi sanitari offerti da INSIEL, i medici di famiglia chiedono un salto di qualità a livello informatico. Prezzi che continuano a salire, compravendite in calo del 10%, presentato a Trieste il borsino immobiliare FIAIP. 2,5 milioni di prosciutti DOP prodotti nel 2023 dal Consorzio del San Daniele, export su del 2%. Il CAI di Trieste ricorda l'ex rettore Fermeglia, un innovatore anche nelle tecniche di intervento del soccorso alpino. Nicola Casagli, riconfermato alla guida dell'OGS, nel suo primo mandato più sedi, dipendenti e risorse in entrata. 12:31, buongiorno da Daniele Lettige. Rita Micoli ha scosso l'intera comunità di Ronchi dei Legionari il caso di maltrattamenti in una scuola dell'infanzia del comune. La segnalazione arrivata dall'interno dell'istituto di Via Fratelli Cervi. Non ho dormito la notte, tosta. Prevalgono incredulità e preoccupazione tra i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia di Via Fratelli Cervi di Ronchi dei Legionari, dove secondo la procura di Gorizia due maestre di una delle due sezioni maltrattavano quasi quotidianamente una bimba affetta da disabilità cognitiva. Strattoni, schiaffi, urla e improperi, tutto registrato dalle telecamere piazzate dai carabinieri dopo una segnalazione arrivata dall'interno della scuola. I genitori nulla sospettavano. Ve l'aspettavate? No. Anche perché mia figlia è andata sempre volentieri a scuola e non c'è stato mai nessun segnale di niente. Io veramente ancora non ci credo, mi sembra impossibile. Cioè, avevano fatto una buona impressione a lei queste maestre? Ma io ho scelto una di queste maestre per mia figlia proprio, perché la conosco da tanti anni. Quindi, sinceramente, spero ci sia un errore. Siamo un po' preoccupati per la situazione in generale e vorremmo delle risposte da parte dell'istituto, anche celeri, almeno una versione dei fatti ufficiale magari. Le due maestre, di cui una di sostegno, devono ancora fornire la propria versione dei fatti. Potranno farlo davanti al giudice nei prossimi giorni, nell'interrogatorio di garanzia. Nel frattempo rimangono ai domiciliari, in custodia cautelare. La comunità di Ronchi è scossa. Il sindaco Mauro Benvenuto. Questi sono fatti che sono inaccettabili e quindi tutti si sono ovviamente preoccupati. Preoccupati perché sono delle situazioni che coinvolgono bambini, ma in questo caso delle persone fragili, dei bambini fragili, che è ancora più grave. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Confermare l'assoluzione perché non imputabile per vizio totale di mente di Alejandro Stefan Meran, accusato del duplice omicidio di due poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, uccisi nella questura di Trieste il 4 ottobre 2019. È stata questa la richiesta ribadita in aula dal sostituto procuratore generale Antonietta Picardi nell'udienza che si svolge oggi in Cassazione. I supremi giudici sono chiamati a esprimersi sul ricorso della procura generale di Trieste contro la sentenza della Corte di Appello che nei confronti del 33enne di origine dominicana aveva riconosciuto, così come in primo grado, il vizio totale di mente, disponendo la sua permanenza in una REMS, una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, per 30 anni, vista la pericolosità e la necessità di cure specifiche. Numerosi furti in abitazione a Trieste e provincia, bande di criminali che agiscono soprattutto la notte. A confermare il fenomeno in aumento la questura di Trieste, che però rimanda ogni commento a domani, quando si terrà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di un uomo che ha subito un tentativo di furto. Stava lavorando al PC alle 2 di notte quando sente dei rumori, la luce con sensore di movimento s'accende in giardino e lui capisce che qualcosa sta succedendo. Vede delle sagome dalla finestra, qualcuno che tenta di aprire la porta, reagisce, esce di casa. Ho visto due uomini scappare, erano bianchi, corporatura robusta, avrei preferito fossero persone che avevano bisogno di aiuto e invece si capisce che l'intento era un altro. È ancora scosso Aleš Antonić, ingegnere aerospaziale e progettista di Malkina, frazione di Duino Aurisina, che una settimana fa ha subito un tentativo di furto in casa dove vive con compagna e mamma anziana. Perché è uscito? Gli chiediamo. Cosa potevo fare? In qualche modo dovevo mandarli via. Il cartello che intima ai ladri di non avvicinarsi non basta più. In 7 giorni ha messo telecamere visibili e nascoste, tanta la paura che ha preso. La mia è la 10ª casa di Duino in cui i ladri hanno tentato di entrare, ci racconta. La polizia ha impiegato una 20ina di minuti ad arrivare quando li ho chiamati. Se fossero riusciti ad entrare in casa i ladri, chissà cosa avrebbero fatto, dice. In effetti, i furti in appartamenti e villette sono stati numerosi a Trieste e provincia in queste ultime settimane. A confermarcelo è la questura di Trieste, che al momento però non divulga i numeri del fenomeno. Domani dal prefetto si terrà un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Questo sarà uno dei temi chiave, ci confermano dalla prefettura. Meno di 48 ore fa, l'ultimo colpo a San Vito. Tra contanti, gioielli, orologi e oggetti preziosi, il bottino si aggira sui 20.000 euro. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E i finanzieri di Pordenone hanno arrestato il titolare di un negozio di cannabis light, responsabile di aver spacciato cocaina e sigarette elettroniche al THC, il principio attivo della cannabis, nel suo negozio. Sequestrati anche 10 kg di marijuana e oltre 1 chilo di hashish, privi della documentazione di filiera. L'attività nasce dall'osservazione di un esercizio attivo nel confezionamento, distribuzione e vendita della cosiddetta cannabis light, segnalato come possibile nodo dello spaccio di sostanze illegali nel Friuli occidentale. Le fiamme gialle hanno assistito direttamente ad uno scambio furtivo tra il titolare del negozio e un cliente che è stato poi trovato in possesso di 1 grammo di cocaina e di una sigaretta elettronica con cui fumare un liquido che conteneva un valore di THC prossimo al 90%. L'uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione del PM che ne ha disposto i domiciliari. Sono stati ripristinati i guasti informatici sugli applicativi InSiel per la sanità. I disguidi inducono la regione a ulteriori semplificazioni, dicono però i medici di base. Ancora qualche disservizio segnalato in mattinata nelle farmacie, soprattutto per l'inserimento delle ricette elettroniche e la prenotazione di esami CUP. Ma gli applicativi regionali dedicati alla sanità dovrebbero oggi funzionare normalmente. InSiel, la società per i servizi digitali della regione, si scusa per i disagi nella giornata di ieri e rende noto che poco prima della mezzanotte si sono concluse le attività di ripristino del componente informatico danneggiato. 470 le richieste di aiuto pervenute al servizio assistenza. Accessi rallentati in pronto soccorso, impossibilità di stampare le etichette per i prelievi, difficoltà a consultare esami e fare referti, prenotare visite o effettuare pagamenti, alcuni dei disservizi segnalati. Il presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Udine, Gianluigi Tiberio, coglie l'occasione per chiedere alla Regione un salto di qualità a livello informatico che includa anche la completa dematerializzazione delle ricette, ovvero la possibilità per il medico di caricare su un portale la ricetta e per il paziente di presentarsi in farmacia, passare la tessera sanitaria e ottenere quanto necessario, senza ricette rosse o senza stampa di promemoria per quelle bianche. Per le cosiddette ricette rosse, quelle su cui può intervenire la Regione, Luca De Grassi, presidente di Federpharma FVG, indica che la sperimentazione potrebbe partire entro la fine del primo semestre. Comporterebbe un notevole sgravio burocratico per medici e farmacisti, ma anche per i 95.000 diabetici in Regione, per esempio, oppure per chi soffre di disfunzioni metaboliche, categorie ancora legate alla stampa e alla consegna della ricetta rossa. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Mercato immobiliare, i prezzi continuano a salire, le compravendite nel 2023 sono calate del 10%. Presentato a Trieste il borsino immobiliare dettagliato per ogni zona della città, redatto dal Centro Studi della Federazione Agenti Immobiliari Professionali, FIAIP. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione dei dati del borsino immobiliare a cura di FIAIP Trieste, ma anche con accenni da parte di tutto il Friuli Venezia Giulia. Siamo nella sede di Confindustria Alto Adriatico di Trieste. Il dato più eclatante è forse una contrazione del numero di compravendite, che si attesta intorno al 10%, un dato importante ma inferiore a quello nazionale, che sale intorno al 13%. Nonostante questo, i prezzi continuano a salire dal 2016, sono in crescita e il dato si attesta a un più 1% come valore di crescita degli immobili. Ne parliamo con Filippo Avanzini, presidente della FIAIP Trieste. Come se lo spiega questo andamento? È una cosa che capita, un corso ricorso della storia? Ma sicuramente il mercato immobiliare ha sempre avuto un andamento sinusoidale, diciamo così. Per quanto riguarda Trieste invece c'è un altro discorso. La città è cresciuta negli ultimi anni e questo ha permesso, proprio vedevamo dal 2016, un continuo aumento dei prezzi del mercato immobiliare. Trieste in realtà era distante dalla media nazionale, quindi questa crescita ha fatto sì che Trieste si allineasse al mercato nazionale. E i prezzi sì, sono di poco, ma sono in continuo aumento. E questo è un altro segnale importante per dire che Trieste è sempre attrattiva e che il mercato immobiliare di Trieste è sempre molto vivace e frizzante. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. È in crescita invece il mercato delle automobili e a farla da padrone sono quelle usate, anche perché i prezzi del nuovo restano alti nonostante si registri un lieve calo rispetto all'anno scorso. Segno positivo nel mercato dell'auto in Friuli Venezia Giulia nel 2023, sia sul nuovo che sull'usato. Più 12% sulle auto uscite di fabbrica rispetto all'anno precedente, 22.700 prime iscrizioni, a fronte di quasi 60.000 passaggi di proprietà nell'usato, più 2,2%. L'ago della bilancia che pende di più verso l'usato è una tendenza ormai consolidata, da noi come nel resto d'Italia, dove nel 2023 per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 184 di seconda mano. Settore, quello dell'usato, è diventato cruciale per svecchiare il parco auto a fronte di un generale aumento dei prezzi, più 10% in regione rispetto all'anno prima, secondo il portale AutoScout. Giorgio Sina, presidente del settore auto di Confcommercio FVGE Veneto. Il 23 è stato un anno dove ancora i prezzi si sono mantenuti alti, proprio a seguito della mancanza di prodotto di auto nuove a cavallo tra il 22 e il 23, e quindi anche nel 24 direi che ci sono dei valori ancora abbastanza direi sostenuti, anche se in diminuzione rispetto al 22 e al 23. Più compravendite nell'usato a Udine, anche se in percentuale, più dinamicità si riscontra a Pordenone, con un più 5,4% rispetto all'anno precedente. Flessione invece nel Goriziano, con un meno 15,3%. In tutto il 2023 immatricolate poco più di 900 auto elettriche in tutta la regione. Secondo Sina, l'uscita di vetture elettriche dal costo intorno ai 35.000 euro e con 400 km di autonomia potrebbe far decollare questo segmento di mercato. Con gli incentivi vanno ad un prezzo, direi, basso, fatemi dire, basso per essere un'auto elettrica, e quindi aiuta ad incrementare le vendite dell'elettrico. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E adesso parliamo di prosciutto di San Daniele DOP, fatturato in linea con il biennio passato. Dopo il balzo in avanti del 2022 cresce l'export, primi mercati in ordine di volumi, Francia, Stati Uniti, Australia, Germania e Belgio. Anche il 2023 è stato un buon anno per il comparto del prosciutto di San Daniele DOP. Basta citare i dati di produzione. Oltre 2,5 milioni di prosciutti, dell'export pari al 19% delle vendite totali e il numero di vaschette di preaffettato che supera i 2,3 milioni di confezioni certificate. Il prosciutto di San Daniele DOP si conferma così come uno dei prodotti enogastronomici italiani più acquistati in Italia e all'estero. La produzione 2023 è stata per la precisione di 2.590.000 cosce nei 31 stabilimenti collocati all'interno di San Daniele del Friuli, provenienti dai 3.510 allevamenti certificati situati in 10 regioni del centro-nord Italia e conferite dai 44 macelli della filiera DOP. La quota di export registra una crescita del 2% e si attesta al 19% rispetto alle vendite totali dell'anno, con circa 3 milioni di chilogrammi indirizzati al mercato extra Italia. Il 55% delle quote totali di export è stato destinato all'Unione Europea, mentre il restante 45% è stato esportato in paesi terzi. I paesi che detengono la quota più rilevante si confermano, in ordine di volumi, Francia, Stati Uniti, Australia, Germania e Belgio. maggio. Gli altri principali mercati esteri di destinazione sono Svizzera, Austria, Regno Unito, Lussemburgo e Canada. Nel 2023 si registrano poi ottime performance dell'export per Stati Uniti più 11%, Australia più 7%, Regno Unito più 30% e Repubblica Ceca con più 18%. Il fatturato totale delle attività di produzione e distribuzione si mantiene a 360 milioni di euro, in linea con gli anni precedenti, dopo il più 14% rilevato nel 2022. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Quando sono passate da poco le 12.45 siamo al tempo, cielo da nuvoloso coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 12 gradi, a Gorizia e Pordenone 11 gradi e mezzo, a Udine 9 gradi, a Tolmezzo 3 gradi, a Tarvisio 2 e mezzo, a Forni di Sopra 5 decimi di grado sotto lo zero, a Piancavallo 5 decimi di grado sopra lo zero, a Sappada 1 grado, sul Monte Lossari meno 1 grado e mezzo, sul Monte Zoncolan meno mezzo grado. Sulla costa a Grado 12 e a Lignano 11 gradi. Le previsioni dell'ARPA questo pomeriggio in serata: cielo coperto con piogge deboli sulle zone orientali, da moderate ad abbondanti su quelle occidentali, specie sulle prealpi carniche. Quota neve oltre 1300 metri sulle Alpi e 1500 sulle prealpi. Verso il Cadore la quota neve potrà essere in genere più bassa. Sulle zone sudorientali potrebbe anche non piovere in serata. Domani piogge al mattino, miglioramento dal pomeriggio e quota neve oltre i 1500 metri, e in queste ultime ore sono stati circa 15 centimetri di neve caduti a Forni di Sopra. Tra la notte e stamattina ha nevicato abbondantemente anche a Sappada, ancora pioggia invece a Tarvisio. Tra inquinamento dell'aria e tumori c'è una relazione stretta e diretta, a confermarlo il CRO di Aviano. Il Friuli occidentale è il territorio con la peggiore qualità dell'aria in regione. In Friuli Venezia Giulia la concentrazione media annuale di PM2.5 nel 2023 è stata di 12 microgrammi per metro cubo d'aria a Gorizia e Trieste, 13 a Udine, 16 a Pordenone, che sconta anche la vicinanza a Treviso e Venezia tra le più inquinate d'Italia. Ma qual è la relazione tra smog e tumori? Lo abbiamo chiesto a Diego Serraino, che è direttore della struttura di epidemiologia oncologica del CRO di Aviano. Da molti anni sappiamo che l'inquinamento atmosferico con le polveri sottili è una causa certa di tumore del polmone, in particolare per quanto riguarda le polveri sottili PM10 o 2.5 e probabilmente del tumore della vescica. Per gli altri tumori non ci sono ancora evidenze nette di questa relazione diretta. Di recente l'OMS ha abbassato i livelli di guardia degli inquinanti, suggerendo per il PM2.5 il valore soglia di 5 microgrammi per metro cubo d'aria. Ancora Serraino. La legislazione vigente europea parla di 25 microgrammi, quindi è 5 volte più basso. E da questo punto di vista è chiaro che la misura del rischio è un rischio che aumenta, diciamo, dell'8-9% per ogni 10 microgrammi di metro cubo di PM2.5, è cruciale. Ovviamente non ci sono solo i tumori, ci sono anche le malattie acute, l'infarto, l'asma, l'asma bronchiale, e queste sono particolarmente evidenti nei casi di picchi. Su questo c'è molto lavoro da fare, ma soprattutto decidere come abbattere questa alta concentrazione causata sostanzialmente dal traffico, dall'allevamento intensivo degli animali, dalle ovviamente la produzione industriale, dal riscaldamento domestico. In regione intanto l'Osservatorio Ambiente e Salute, che ha prodotto evidenze fino al 2018, ad oggi non è più attivo. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha confermato Nicola Casaglia alla presidenza dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, l'OGS di Trieste. Casagli, professore ordinario di geologia applicata al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, è alla guida dell'ente dal 2020 e resterà ora in carica fino al 2028. Sotto la guida di Casagli, l'OGS ha aperto 3 nuove sedi a Venezia, Milazzo e Livorno. A ottobre scorso Casagli ha guidato al Quirinale una delegazione dell'ente ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso del primo primo mandato il personale è passato da 321 a 427 unità, con un incremento del 52% di giovani ricercatori in formazione. Le pubblicazioni sono aumentate del 26% e a livello finanziario, anche grazie ai bandi PNRR, l'OGS ha raddoppiato le risorse in entrata, passando da 48 milioni di euro a oltre 100 milioni di euro. Alla sua importante attività accademica, l'ex rettore dell'Università di Trieste Maurizio Fermeglia, morto domenica dopo un malore in Valle Rosandra, ha affiancato per molti anni quella nel soccorso alpino regionale, di cui è stato presidente della commissione tecnica, spingendo costantemente per la sperimentazione e l'adozione di tecniche e modalità di intervento innovative all'avanguardia. Ci traccia un ricordo di questa sua attività l'alpinista ed ex presidente della sezione 30 ottobre del CAI di Trieste, di cui Fermeglia era socio, Tullio Ranni. Maurizio Fermeglia, Mau per gli amici, è entrato nel soccorso alpino dopo un'ottima esperienza e attività alpinistica. Era diventato un paio d'anni dopo l'entrata alla stazione di Trieste capo stazione, collaborando con le varie stazioni regionali, si è portata l'esperienza speleologica triestina nell'utilizzo delle corde in ambiente alpino. La sua capacità alpinistica, affiancata alla mentalità da ingegnere, razionalizzava tutte queste attività, portando come dimostrazione, come primo esempio di tutto questo, la calata lungo il Liedro Cozzolino. Penso in regione, in quell'epoca, una delle prime manifestazioni di cosa si poteva effettuare con l'utilizzo di solo corde, velocizzando anche tutto l'intervento. Dopo di questo, visto le capacità che portava avanti, è stata formata sempre nella nostra regione una commissione tecnica dove automaticamente Maurizio è diventato il presidente. E il suo contributo è stato anche di modernizzazione dal punto di vista organizzativo? È stato soprattutto di unire le mentalità della regione, triestini, friulani, carnici, a utilizzare e a valorizzare i sistemi moderni. La mentalità di ingegnere faceva ottimizzare, schematizzare e portare avanti un discorso, creando questa uniformità regionale che ha permesso di crescere a livelli che adesso sono decisamente importanti. Una notizia che riguarda l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, che ha comunicato che da oggi hanno inizio i lavori di ristrutturazione di alcuni locali della medicina B al quarto piano dell'ospedale di Gorizia. Le aree interessate comprendono la prima metà del corridoio del reparto di medicina, che sarà quindi interdetto al pubblico. Per raggiungere la medicina B bisognerà quindi raggiungere il reparto di medicina al terzo piano e attraversarlo lungo tutto il corridoio per poi salire al quarto piano. La conclusione dei lavori è prevista intorno alla fine di marzo. Perché sogniamo? Perché sognare per l'essere umano è un bisogno vitale e ineludibile? Sono questi gli interrogativi al centro dello spettacolo L'interpretazione dei sogni, che Stefano Massini, scrittore e drammaturgo apprezzato anche per le sue apparizioni televisive, porterà in scena, in replica unica, questa sera alle 20.30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Un percorso scandito dai testi di Sigmund Freud, in cui prende forma un mosaico di personaggi che compongono una sinfonia di possibili interpretazioni. Abbiamo chiesto a Massini qual è stata l'ispirazione per scrivere questo testo. Chi è che non ha mai pensato almeno una volta a quale sia il significato delle cose che sogna di notte? È una domanda che tutti quanti ci siamo posti almeno una volta. Ci piacerebbe avere il significato di queste strane storie, di questi strani spettacoli teatrali che si muovono nella nostra testa ogni volta che andiamo a dormire. Freud ci insegna che ogni essere umano sogna ogni notte. La differenza è soltanto se vuoi o non vuoi, per ragioni più o meno consapevoli, ricordarti. Freud è un medico che alla fine dell'Ottocento comincia a porsi delle domande su qualcosa su cui nessuno si era fino a quel punto posto una domanda. Per quale ragione l'essere umano sogna? E c'è un modo per sciogliere il significato dei propri sogni? Che cosa sono i sogni? Perché ne abbiamo necessità? Ecco, tutte le risposte a queste domande sono nel mio spettacolo. E qual è invece il filo che lega questo spettacolo su Freud ad altri suoi celebri spettacoli che apparentemente sembrano lontani? Penso alla Lehman Trilogy o al Manhattan Project, l'ultimo che ha scritto. Ho sempre raccontato nei miei testi ciò che non si vedeva evidentemente. La storia dell'economia, che nella storia della famiglia Lehman è una storia che piano piano prende forma nel silenzio e poi scoppia appunto con il crollo della banca. La storia della bomba atomica, che è una storia che appunto continua dentro i laboratori, chiusa dentro appunto le ricerche di una serie di fisici brillanti e poi appunto diventa un'arma di distruzione di massa a Hiroshima e Nagasaki. Mi piacciono sempre le storie che non fanno rumore, le storie silenziose che poi invece a un tratto scoppiano e quando scoppiano ci domandiamo perché. È un po' come nei sogni, anche nei sogni noi continuamente ci raccontiamo qualcosa che è dentro di noi e che non fa abbastanza rumore fino a quando magari poi scoppia fragorosamente nella nostra vita interiore. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Riccardo Stoic e Viola Romanese, in segreteria ha collaborato Daniela Sossi. Prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR del Friuli Venezia Giulia, il telegiornale alle 14 sul terzo canale televisivo. L'informazione radiofonica torna su queste frequenze alle 15. E da Daniele Letti e Rita Micoli grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.